Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Ben ritrovati ad Assemblea On Air, il programma che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. In studio Isabella Scandaletti e Francesca Mezzadri. In questa puntata, il rendiconto annuale dell'Assemblea, la nuova programmazione dei servizi di emergenza e urgenza e altri atti presentati dai consiglieri sempre in tema di sanità. Avremo poi un approfondimento sull'aeroporto Marconi di Bologna e i problemi legati all'impatto acustico dei voli. Ma iniziamo con il tema più caldo, quello dell'emergenza post-alluvione. A poco più di un mese dall'alluvione che ha colpito la regione, i consiglieri tornano a confrontarsi in aula sui danni e l'emergenza da affrontare. Le richieste di una commissione d'inchiesta sull'alluvione e di una commissione di studio e ricerca sull'emergenza idrica, presentate rispettivamente da Lega e Fratelli d'Italia, sono state respinte. Secondo le dichiarazioni della maggioranza, questo è il momento di rispondere all'emergenza e ai bisogni dei cittadini e non è tempo di commissione d'inchiesta. Sentiamo Marcella Zappaterra del Partito Democratico. Abbiamo bisogno di risposte celeri, di risorse certe e tempi veloci per la ricostruzione. Il governo per il momento ha fatto passerelle, quindi ci siamo appellati alla Presidente Meloni perché la ricostruzione della Romagna sia una priorità. Ai gruppi di minoranza ribadiremo la nostra collaborazione al confronto, ma finché non cambierà il registro istituzionale col governo non lasceremo spazi neanche ai gruppi di minoranza per lo stesso confronto che non abbiamo noi. Sulla stessa lunghezza d'onda Giulia Pigoni della lista Bonaccini. Con forza diciamo che questo oggi non è il tempo delle pagelle da dare, ma è tempo della ricostruzione e della gestione dell'emergenza e per questo il governo deve veramente muoversi. Le opposizioni contestano che in questo modo si nega trasparenza agli emiliano-romagnoli. Ecco le parole del capogruppo della Lega, Matteo Rancan, e a seguire Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d'Italia. Crediamo che sia davvero un'azione politica molto grave, perché questo significa non poter e non riuscire ad andare ad approfondire. Noi in questa commissione avremmo voluto invitare tecnici, professionisti terzi, quindi persone terze, non politici, quindi che avrebbero magari una polarizzazione loro, ma sicuramente qualcuno di competente realmente e terzo. Questo non ci sarà data la possibilità, per noi è molto grave e questo anche significa che qualcuno probabilmente ha qualcosa da nascondere. Abbiamo insistito perché la commissione di studio potesse essere istituita, ci preoccupava appunto tutti i vari segnali che arrivavano sull'emergenza idrica. Si è persa un'ennesima grande occasione di poter fare chiarezza, di poter cercare di capire e cercare di mettere a luce la verità. Mentre si continua a fare la conta dei danni nei diversi settori, Federico Amico di Emilia Romagna Coraggiosa con un question time si concentra soprattutto sul patrimonio culturale e sui palazzi storici, botteghe artistiche e anche sui luoghi di culto per sapere l'entità dei danneggiamenti provocati dall'alluvione. L'assessore alla cultura Mauro Felicori ha spiegato che si sta lavorando per una ricognizione delle strutture danneggiate, oltre a prevedere agevolazioni fiscali per chi dona a sostegno della cultura, il cosiddetto art bond. Bonus. Ecco le parole di Amico. La risposta dell'assessore Felicori credo che sia stata piuttosto interessante, perché oltre la ricognizione, questo sarà oggetto di un ulteriore atto che porteremo in assemblea, sarà quella di arrivare a chiedere un'estensione dell'art bonus senza dover ricorrere magari a strumenti come il gioco d'azzardo. Un problema non da poco causato dall'alluvione per Marco Mastacchi di Rete Civica è quello relativo alle prove scritte degli esami di terza media e della maturità. Sentiamolo. E paradossalmente in alcune zone dove ci sono le scuole superiori alcuni ragazzi hanno potuto fare l'esame scritto e altri si sono visti, fra virgolette, discriminati a dover realizzare un esame solamente orale. E per Silvia Zamboni di Europa Verde le questioni da risolvere con più urgenza ora sono la scelta di un commissario straordinario e lo stanziamento dei fondi da parte del governo. Purtroppo siamo di fronte a un grande ritardo del governo nello stanziare i fondi, nello stabilire le procedure, nell'identificare anche la figura commissariale che dovrà gestire appunto la ricostruzione. Dal terremoto siamo usciti bene, con questi ritardi del governo come ne usciremo dall'alluvione? Giriamo pagina. Nell'ultima seduta di consiglio, l'Aula ha approvato il rendiconto dell'Assemblea Legislativa relativo al 2022. Andrea Costa, consigliere questore dell'ufficio di presidenza, segnala tra i punti qualificanti un aumento dell'attività rivolta alle scuole e la formazione del personale, che ha raggiunto nell'arco dell'anno il 71% dei dipendenti. Sentiamolo. è un bilancio di circa 18 milioni di euro, è un bilancio che non ha debiti, è un bilancio che ha generato anche importanti risparmi e io credo che questo, in un momento in cui la politica viene raccontata come sperperatrice di risorse, invece sia elemento di virtuosità. E adesso parliamo di sanità. Entro il 2025 verrà completamente riorganizzata la rete del 118 per ridurre gli accessi, rendere più veloci gli interventi e gestire la crisi di personale. È l'unica strada percorribile per salvare il sistema. Nei prossimi 2 anni è prevista una riduzione del personale di circa il 25%, sottolinea in commissione l'assessore regionale Raffaele Donini, che riporta anche alcuni dati. In Emilia-Romagna, nel 2022, i cittadini che si sono recati al pronto soccorso sono stati 1.800.000. Il 66% di loro con codici bianchi o verdi, addirittura il 95%, non ha avuto bisogno di ricovero. L'80% degli accessi, poi, ha coinvolto solo 20 strutture del territorio regionale. Da qui parte il nuovo modello che prevede un primo contatto telefonico qualificato con operatori sanitari che indirizzi i cittadini con codici bianchi e verdi ai nuovi centri di assistenza e urgenza che saranno distribuiti sul territorio. D'accordo Partito Democratico e lista Bonaccini. Sentiamo la democratica Ottavia Soncini. I cittadini troveranno una migliore risposta ai bisogni di salute. Per le emergenze tempo dipendenti, quindi traumi, infarti, ictus, troveranno risposta nei pronti soccorsi con le strutture e gli ospedali adeguati alle spalle. Questo significherà appropriatezza nella domanda e nella risposta, valorizzazione degli operatori sanitari, minori tempi di attesa e soprattutto continuiamo a puntare su un sistema sanitario pubblico. Ma per Lega e Fratelli d'Italia il nuovo modello è una mera risposta alla mancanza di personale. Simone Pelloni della Lega sottolinea anche il problema delle realtà periferiche. Secondo noi rischia di essere un taglio dei servizi soprattutto per la provincia e quindi per le zone più periferiche. E quindi oggi c'è stata illustrata per la prima volta in sede ufficiale questo progetto di riforma. Di fatto non è una riforma, ma è una riorganizzazione che penalizza i territori periferici. Continuiamo a parlare di sanità. Sentiamo cosa ha chiesto con un'interrogazione a risposta immediata Michele Facci della Lega. Ho chiesto alla Giunta Bonaccini che cosa intende fare per riaprire i punti nascita in montagna che erano stati promessi e sono oggetto del programma di mandato. Soprattutto alla luce di un fatto, la costituzione di un osservatorio regionale per sostenere i parti extra ospedalieri ed è una misura che a nostro avviso è in contrapposizione con il dichiarato intento di riaprire i punti nascita e quindi a sostenere i parti all'interno degli ospedali. In risposta l'assessore Raffaele Donini ha chiarito che l'attività dell'osservatorio è indipendente dalla riapertura dei punti nascita e ha ribadito la volontà politica di riaprire le strutture. Nel suo Question Time, Valentina Castaldini di Forza Italia ha chiesto chiarimenti alla Giunta sui servizi sanitari erogati nei locali del collettivo LABA di Vicolo Bolognetti 2 a Bologna. Semplicemente noi abbiamo chiesto quali sono state le regole di ingaggio, cioè quali sono le regole che loro, a nostro parere, non rispettano alla lettera così come viene chiesto ai privati, perché in realtà mancano informazioni fondamentali proprio per dare un servizio pubblico. Cambiamo argomento. L'impatto acustico dell'aeroporto Marconi di Bologna è stato al centro di un incontro promosso dalla Commissione Territorio Ambiente per ascoltare i rappresentanti dei comitati dei comuni di Bologna e Calderara fino ai vertici della società aeroportuale. Sentiamo Stefano Caliandro del Partito Democratico e presidente della Commissione. Si tratta sostanzialmente di far progredire il nostro territorio nel rispetto però del diritto alla salute, del diritto al riposo e anche del diritto a poter avere una Bologna, un aeroporto bolognese più efficiente. La recente ordinanza che ha azzerato i sorvoli notturni su Bologna soddisfa cittadini e amministratori locali, mentre una petizione al vaglio della Commissione chiede alla Regione di adoperarsi nei confronti del Governo affinché si modifichino le attuali norme antirumore considerate obsolete, in particolare per quanto riguarda gli aeroporti che si trovano nelle aree urbane. A settembre partirà la sperimentazione su alcune modifiche alle rotte in fase di decollo, che dovrebbe portare ad una significativa riduzione dei rumori sulle aree abitate. Inoltre, la società Aeroporto di Bologna metterà ulteriori risorse per la bonifica acustica in aggiunta ai 2 milioni di euro già raccolti nel 2022 con l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aerei. Prima di concludere, ricordiamo la raccolta fondi della Regione Emilia-Romagna per sostenere le comunità colpite dall'alluvione. Tutte le informazioni sul sito assemblea.mr.it. Grazie per essere stati con noi e a risentirci su queste frequenze. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia-Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.